E allora, tanto per entrare nel tema, diciamo, cominciamo a dare un'occhiata a quella che è la piattaforma delle rivendicazioni delle sigle sindacali che hanno promosso appunto la manifestazione, e cominciamo appunto da quella che è la piattaforma proposta dai COBAS, che fa riferimento a una serie di punti, obiettivamente a una serie di punti che sono stati anche più volte affrontati da noi e comunque da questi microfoni. Vado a leggere appunto dal volantino che chiama allo sciopero. Il primo punto che viene messo in evidenza è evidentemente quello della necessità di un forte recupero salariale rispetto a quello che è lo stipendio di base del personale della scuola, per cui tanto degli insegnanti evidentemente quanto del personale ATA, un recupero salariale che viene quantificato in almeno 300 euro. Ma la cosa, diciamo, che è importante mettere in evidenza appunto è proprio il fatto che il personale della scuola ha i contratti bloccati oramai da diverso tempo, e ha bloccati evidentemente, come sappiamo bene, gli scatti di anzianità a partire dal 2009, e come sentiamo anche dalle anticipazioni giornalistiche, il decreto di stabilità dovrebbe prorogare il blocco degli scatti di anzianità e il blocco contrattuale per il personale del pubblico impiego almeno fino al 2015. Questo è senz'altro un punto importante, dunque. E dopodiché il secondo punto è un punto su cui forse non è neanche necessario soffermarsi molto, ed è evidentemente il riferimento a quello che è il sistema nazionale di valutazione, che è stato recentemente introdotto nella scuola dal governo Monti, ma che è stato sostanzialmente accolto e mantenuto dal governo Letta e dalla ministra Carrozza, e soprattutto l'opposizione a quelli che sono i famigerati oramai test invalsi. A questo proposito viene evidenziato dal volantino, e abbiamo evidenziato questa cosa anche nelle scorse trasmissioni, analizzando proprio il tanto sbandierato decreto scuola del governo Letta, viene evidenziato che l'articolo 16 della legge Carrozza, del decreto scuola, prevede, come sappiamo, che il personale scolastico che lavori in zone dove i risultati dei test invalsi in scuole, dove i risultati del test invalsi non sono soddisfacenti, risultino pertanto inferiori alla media nazionale, il decreto prevede che questo personale frequenti attività di formazioni obbligatorie. E quindi, diciamo, questo è senz'altro un altro dei punti qualificanti, proprio al di là di questo aspetto che è molto specifico, comunque l'opposizione al sistema nazionale di valutazione e in particolare allo strumento del test, del quiz invalsi. L'altro aspetto che viene rivendicato e che rappresenta sicuramente un punto di importanza capitale rispetto a quella che è la situazione di tanti lavoratori e tanti lavoratrici che da anni vivono nella scuola con la condizione drammatica dei precari, è appunto la rivendicazione e la sollecitazione di una soluzione al problema del precariato, una soluzione che non deve e non può passare attraverso lo strumento del concorso, della farsa concorso che abbiamo visto in atto nell'ultimo anno, ma che deve passare evidentemente per l'assunzione dei precari, delle persone che hanno alle spalle anni di precariato e che sono evidentemente già abilitate all'insegnamento su tutti i posti disponibili e vacanti. E successivamente si passa ad affrontare un'altra tematica, che è una tematica recente di cui abbiamo trattato, e cioè quella relativa ai BES, ai cosiddetti bisogni educativi speciali. I bisogni educativi speciali è sostanzialmente una nuova categoria molto generale, direi quasi onnicomprensiva, all'interno della quale da sostanzialmente la fine dello scorso anno scolastico, gli ultimi mesi, non ricordo esattamente quando, e comunque in una grande categoria in cui si dicembre scorso, credo, sì, secondo me anche più avanti, ma comunque non è importante questo. Però, come sapete, è stata istituita una categoria generale all'interno della quale si fanno rientrare tutti quanti quei ragazzi che hanno problemi di apprendimento determinati da fattori certificabili, come ad esempio la dislessia, o da fattori non certificabili che possono essere rappresentati da qualunque tipo di difficoltà. e dal fatto che vivono in famiglie complesse, dal fatto che vivono situazioni di povertà, dal fatto che siano studenti stranieri e così via dicendo, e la cura, diciamo così, di questi studenti è demandata interamente ai consigli di classe ed esclusivamente ai consigli di classe, che sono deputati anche per l'individuazione delle eventuali situazioni problematiche, senza che ci sia nessun intervento esterno da parte di nessuno specialista. È evidente che in questa categoria, la categoria dei BES, si tende a far rientrare tutta una serie di ragazzi che in precedenza erano sostenuti appunto dagli insegnanti di sostegno, o potevano essere sostenuti dagli insegnanti di sostegno, in particolar modo i dislessici, che questo comporta, tra le altre cose, una riduzione degli organici di sostegno. Il tutto dentro una, come dire, ovviamente si tratta di uno sciopero generale, quindi dentro una cornice che porta in piazza l'opposizione alle drastiche ricette del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Europea, dell'Unione Europea, e quindi ai tagli indiscriminati al welfare, agli stipendi, ai salari dei lavoratori e delle lavoratrici, un sostegno al reddito, un sostegno all'occupazione, eccetera eccetera. Questo più o meno la piattaforma. Sì, c'è un'ultima questione all'interno della piattaforma, che è quella della quota 96, cioè quei lavoratori che i cui diritti, diciamo, erano fatti salvi dopo l'entrata in vigore della riforma Fornero. Scusa, ti si sente male? Che avevano ecco. 35 anni di servizio e 60 di età, e quindi raggiungevano questa quota, e 61 di età o 60, insomma, vabbè, la quota era 96, e il problema che si solleva è quello che questi diritti sono stati riconosciuti se maturati al 31 agosto, questo pure ne abbiamo parlato tanto, al 31 agosto del 2011, e quindi sono rimasti esclusi quelli che per esempio compivano gli anni necessari successivamente. Questa cosa è un altro tormentone governativo, non ovviamente da chi pone la questione, perché se ne parla, ci sono audizioni, il governo tiene presente, però di fatto non si combina nulla da questo punto di vista. E perché ovviamente, come sapete, i lavoratori della scuola e le lavoratrici della scuola possono andare in pensione solo con l'inizio del nuovo anno scolastico, quindi hanno una sola possibilità all'anno di poter andare in pensione. Questa cosa era stata corretta parecchi anni fa, quindi si valutavano anche i requisiti acquisiti entro il 31 dicembre, ma con la riforma Fornero, insomma, questa che è una cosa, è un'ingiustizia vera e propria all'interno di una riforma delle pensioni, che comunque è un'ingiustizia già di per sé globale, e quindi anche questo fa parte insomma della piattaforma dei Cobas Scuola per l'adesione a questo sciopero. Poi ovviamente ci sono le parole d'ordine che sono, insomma, comuni, che sono molto molto generali, diciamo, no? Comunque senza voler dare nessuna accezione, quindi lavoro, reddito, pensione, casa, scuola, salute, beni comuni, diritti e democrazia partecipata, contro le politiche d'austerità, precarietà, povertà, privatizzazione e disoccupazione, e contro il governo PD-PDL che le impone. Sì. No, noi vorremmo, però, insomma, ovviamente abbiamo le nostre opinioni, però vorremmo assolutamente, insomma, che chi ci ascolta, perché insomma qualcuno che ci ascolta c'è, ci dicesse anche come vive questo sciopero, no? Che è un po' lo sciopero per quanto riguarda la scuola, ma non solo, perché anche per quanto riguarda i scioperi generali che si sono fatti negli ultimi anni, più o meno in questo periodo, insomma, come lo vive, che cosa pensa, che clima c'è nella sua scuola, se parteciperà, perché, se non parteciperà, perché. Sì, fra l'altro, così, per aggiungere un minimo di sale o di pepe, decidete voi, insomma, per animare il dibattito, Notavo in questi giorni, e noto anche adesso, insomma, sono andata a controllare, potrei sbagliarmi, se mi sbaglio mi si dica, ci sono dei silenzi piuttosto pesanti su questo sciopero. Parlo per esempio del coordinamento scuole di Roma, che sul sito non ha nemmeno un post e sulla mail lista nemmeno una mail che parla dello sciopero del 18 né della manifestazione del 19, mentre si è parlato a lungo e tuttora campeggia sul sito un comunicato a sostegno che invitava tutto il settore della scuola alla manifestazione di sabato scorso, quella diciamo Rodotà FIOM, il che farebbe pensare a delle prese di posizione di sigle sindacali e di area politica, ecco. Con questo non è che voglio dire che non ci deve essere un posizionamento politico, però mi sembra preciso, perché mi sembra strano che sia sfuggito, ecco, che questo sabato c'è una manifestazione. Stessa cosa per quanto riguarda il coordinamento precari della scuola, almeno sulla mail list, magari appuriamo meglio, magari questo non è vero, non ne sono certa, però insomma sono silenzi grossi, non so se di numeri, magari non di numeri, ma diciamo per chi in questi ultimi 2 anni si è mosso in questa città portando in piazza le istanze della scuola, insomma sono silenzi grossi. Sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parle que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence. Ecco, ci sei? Ti sto dando la parola. Sì. Prego. Salve a tutte. Niente, no, volevo intervenire per raccontare il clima nella mia scuola, che in realtà conferma in realtà un silenzio assoluto. Non mi pare che i docenti, ma anche il personale ATA, sia particolarmente coinvolto, ma interessato a questo sciopero. Non solo la piattaforma, che peraltro ignora, perché evidentemente non solo non conosce le varie questioni, ma siamo anche impreparati, mi ci metto dentro, come insegnante, a impreparati nelle nuove disposizioni del decreto, non conosciamo il contratto, molti di noi quasi dimenticano che il contratto è bloccato da ormai da anni, dal 2009, che il contratto sarebbe scaduto, e quindi io vedo un silenzio assordante. L'unica persona che mi ha chiesto se lo sciopero ancora era valido era un collega che si farà un weekend per quel venerdì e il sabato. Ma senza, come dire, nessun disfattismo, nel senso poi molti di noi in piazza ci andranno, ma forse, non lo so, a me quello che viene in mente, vedendo un po' questa situazione, che è abbastanza analoga anche nella mia scuola, del resto è una scuola, come dire, poco sindacalizzata, dove si dibatte poco, ecco, sì, diciamo. Quello che mi viene in mente è che la situazione, come dire, del lavoro, la situazione della vita nel quotidiano di ciascuna e ciascuno di noi è sempre più pesante e più difficile per la situazione economica e per le decisioni politiche dei governi che si susseguono. Difficile è intravedere la via di lotta con cui se ne esce. Forse, come dire, il limite è questo, insomma. che attraverso questo sciopero non si vede come possa proseguire la lotta? Sì, in realtà io ho seguito anche alcune assemblee che motivavano, spiegavano e stimolavano prima al confronto e poi quindi a scendere in piazza, a scioperare, ma anche soprattutto a scendere in piazza. A me pare di corto respiro, perché si vogliono mettere insieme dei casi che sembrano di piccole, di sottinsiemi della nostra categoria, sperando di accomunarle tutte nelle difficoltà che stanno incontrando, eccetera, e di fare di tante piccoli sottinsieme un grande insieme. Ma questo non credo possa riuscire molto, perché l'anno scorso in queste stesse scuole nostre c'è stata una mobilitazione, diciamo non completa, però piuttosto massiccia, almeno a parole, dei docenti e delle docenti, su una cosa che erano le 24 ore, ne abbiamo parlato molto, però diciamo accomunava tutti. E adesso, appena questa calce che poteva unire, il fatto che ci fosse un obiettivo che colpiva tutti e tutte, è andato via, apparentemente in realtà, e ognuno ritorna nel proprio orticello e quindi la propria situazione, a me pare così. Sì, però non si capisce neanche bene anche questo, cioè nel senso, sì, le 24 ore prendevano avevano l'obiettivo del portafoglio di tutte e tutti noi che lavoriamo a tempo indeterminato nella scuola con ruolo di insegnanti. Certo. Però questo portafoglio ce l'hanno svuotato in tanti modi in questi anni, cioè nel senso il salario aggiuntivo di fatto non esiste più, lo stipendio è bloccato dal 2009, per chi doveva andare in pensione le è stata ritardata la pensione di 5 anni, gli scatti che non ci sono, tutto questo sembra, penso che sia rilevante per un lavoratore o per una lavoratrice. Sì, però è passato il messaggio su questo, e passa il messaggio che in situazioni di crisi il nostro continua a essere un posto privilegiato, e questa cosa l'abbiamo fatta nostra, e dunque i diritti che erano nostri e non erano, c'erano certo stati regalati, silenziosamente vengono erosi, e noi lo accettiamo. Se c'è una cosa eclatante, allora ci si risveglia un attimo. Dopodiché si continua ad avere un contratto bloccato, un giorno parleremo anche dei nostri stipendi, perché anche di questo dobbiamo parlare, e quindi qua, se tu parli con le colleghe, i colleghi dentro le segreterie, si dice ancora, anche con i rappresentanti sindacali, si dice ancora ma stiamoci zitti, perché comunque tanto a noi il 27 o giù di lì lo stipendio ci arriva, mentre 23, la situazione credo. Torna drammatica. Io invece la vedo molto miope questa impostazione, perché è chiaro che io mi devo schierare e sentire mio tutti gli attacchi al diritto al lavoro, alla sopravvivenza dei precari, delle precarie, chi il lavoro non ce l'ha, chi viene sfruttato, il nero, eccetera, ma anche allo stesso modo, contemporaneamente, senza fare gerarchie, anche difendere i diritti di chi ce li aveva. Questa cosa non mi pare che venga colta, e quindi i precari si facciano la loro battaglia, gli inidonei se la facciano loro, e i docenti a tempo indeterminato, poi anche il personale, i bidelli, il sostegno separati, e quindi si va, per me questa è la situazione. Sì, poi c'è anche il discorso che c'era un vecchio slogan degli operai della Fiat, e devo usare un termine un pochino forte, a salario di merda, lavoro di merda, no? Se te lo ricorderai. Allora, questo però significa, se lo rapportiamo a noi, noi abbiamo pure una, come posso dire, un'interfaccia, no? Cioè, se la scuola è quello che abbiamo sempre detto, e che soprattutto per esempio i COBAS hanno sempre detto, il COBAS scuola, giustamente, il valore della scuola, adesso si appiattisce tutto su scuola bene comune, io la abrogherei proprio per legge questo termine, perché ormai è diventato proprio lavoro bene comune, Italia bene comune, polizia bene comune, che ne so, carceri bene comune. Però insomma è vero che non è un lavoro come un altro, non voglio con questo dire ovviamente che vale di più, però insomma chi poi in situazioni come quella delle 24 ore, no? Cerca alleanze diciamo ponendo l'accento sul fatto del valore che ha anche la scuola e la professione di insegnante, a questo punto diventa molto difficile continuare a lavorare in un certo modo. Non so se sono stata chiara, ma questo lo vivo anche io, che sono un'amministrativa, perché se ho sempre pensato che il mio lavoro, pure pagato poco e trattato peggio, è però un lavoro che ha a che fare con la vita delle persone e quindi diciamo merita un'attenzione, una cura particolare come moltissimi lavori nella pubblica amministrazione, certo, insomma, diventa difficile. Allora c'è un po' questo scollamento: se non te ne frega niente di quanto sei pagato, io non voglio nemmeno fare il discorso che dice vabbè allora si vede che stai bene, perché non credo che sia, se fosse questo vabbè allora siamo solo noi che stiamo male e facciamocene una ragione e finisce qui. Però insomma, se vuol dire che il tuo lavoro poi lo farai di conseguenza, insomma, perché non dico che devi essere super pagato per avere diciamo, fare un certo tipo di lavoro, però insomma certamente pure una motivazione in questo senso serve. Cioè noi, e parlo appunto in genere, abbiamo pure un'indennità sullo stipendio, no? Indennità di funzione, voi docente, noi non mi ricordo come è chiamata, perché ci viene riconosciuto formalmente che noi lavoriamo in un settore particolare, siamo a contatto con i bambini, con i minori, comunque eccetera, quindi c'è anche questo aspetto. Sul fatto generale, dico, io devo dirvi che insomma sono anni che sono queste le parole d'ordine, molte di queste anche prima dell'austerità. Io mi ricordo per esempio i 500 euro che si chiedevano anni fa su di aumento, no? Poi è rimasto là, cioè è una bandiera che rimane là proprio per rimarcare che è un tipo di lavoro e così via. L'adeguamento agli stipendi europei, eccetera, eccetera, ve lo ricordate? E siamo sempre al punto di partenza. Pure questa lotta che tu citavi, no? Delle 24 ore, ce lo ricordiamo molto bene. Negli anni, mi pare, 90, ci fu tutta quella grandissima mobilitazione sulla riforma Berlinguer e il concorso. Corsone, no? Che prevedeva, per chi non lo sa, appunto una sorta di esami, se ricordo bene, per i passaggi forse di carriera, non so adesso com'era strutturata la questione, dei docenti. Pure lì ci furono mobilitazioni, credo che i COBAS su quello poi siano praticamente, il COBAS scuola siano nati su quello. Quindi dov'è finita tutta quella mobilitazione? Cioè si esce fuori solo quando magari ti minacciano, e lì noi l'abbiamo detto l'anno scorso, anche ad arte, no? Di aumentarti il carico di lavoro a 24 ore frontale, ripeto, per chi magari non è addentro, cioè le ore di lezione, e poi rientrata questa cosa finisce tutto lì. Cioè io pure nelle scuole non vedo una tensione, non vedo, gli scioperi generali dovrebbero insomma arrivare sull'onda di, non dovrebbero essere l'inizio, cioè almeno io per la cultura mia non mi pare che dovrebbero essere un inizio, anche perché evidentemente dei inizi insomma ce ne sono stati tanti. Sì, una parola sola su questa questione della mobilitazione rispetto alle 24 ore, la mobilitazione dell'anno scorso. Siamo d'accordo sul fatto che è stata una mobilitazione di proporzioni diverse rispetto a quelle che interessano il comparto scuola di solito, però obiettivamente rispetto all'entità di quella che era la provocazione, io trovo che non sia stata proporzionata. Cioè abbiamo detto tante volte, anche vivendo proprio quelle ore, quelle manifestazioni, che poi la grande visibilità di quelle manifestazioni era data appunto anche dall'adesione del movimento degli studenti, che hanno fatto i grandi numeri sostanzialmente. È vero che i collegi docenti hanno poi in qualche modo dato l'avvio a quella manifestazione votando mozioni che prevedevano appunto che non si effettuassero attività al di fuori diciamo di quelle obbligatorie, però è anche vero che quegli stessi collegi dei docenti, chi più chi meno rapidamente, si sono affrettati poi a ritirarle quelle emozioni. E quindi non lo so, io senza veramente fare del disfattismo, però effettivamente il corpo docente, mi ritrovo insomma nella rappresentazione che facevi tu all'inizio della telefonata, cioè un corpo docente già di per sé frammentato, senza necessità di andare a provocare un'ulteriore frammentazione modello di vite timpera, nel senso che gli stipendi quindi i salari sono quelli che sono, ma nonostante questo, io non so nelle scuole di chi ci ascolta, ma nella mia, nei collegi docenti, nelle riunioni, si assiste invece sempre di più a una gara a chi è più bravo, nonostante non si sappia quanto verrà corrisposto per le attività aggiuntive e così via dicendo, non lo so. Ricordo, prima di darti ancora la parola, che per chi volesse chiamare, lo 06 49 17 50 è il numero di questa radio. Prego. Sì, no, vi lascio con un paio di considerazioni, perché noi siamo completamente frammentati e quindi all'interno di una stessa scuola, no? Un istituto che può raggruppare al massimo 100 docenti oppure complessivamente 100 lavoratori, si fatica a comunicare, si fatica a confrontarsi e quindi poi anche a prendere assumere una consapevolezza e poi come dire, prendere delle decisioni, e quindi poi sciopero sì, sciopero no, non ha proprio senso, perché ma di cosa stiamo parlando? E quindi non lo so, è un punto di arrivo, sì, condivido, non è un punto di partenza. E poi la crisi clamorosa, profondissima dei sindacati, che ormai non rappresentano veramente nessuno, cioè è veramente, cioè all'interno della scuola non si sente alcuna presenza, come dire, che da fuori ti può, no, non dico proteggere, ma stimolare, che ti è completamente assente, anzi appena nomini il sindacato ovviamente ti guardano storto, senza neanche fare differenze tra i sindacati di base e quelli che firmano qualsiasi cosa. E dopodiché, terza cosa, noi abbiamo letto la lettera, no, dei professori e delle professoresse della scuola superiore in Grecia, che era bellissima perché faceva capire che colpire un settore pubblico come quello della scuola significa colpire non soltanto chi ci lavora dentro, ma chi ci vive, gli studenti, ma chi ci manda i propri figli, le famiglie, il futuro di un paese. Lo faceva capire molto bene, questa cosa ancora non è molto chiara da noi. E non è che dobbiamo arrivare fino a, come dire, a situazione della Grecia in cui si licenziano così dal giorno alla notte, si chiudono le scuole, le università non hanno più servizi, per poter capire questo? Non lo so, mi lascio. Speriamo, un po' disperante questa mia telefonata, però magari qualcuno ha una situazione un po' più, come dire, no, comunque più ottimistica. È sicuramente di stimolo, perché non è che noi dobbiamo stare qui a trascinare le masse, però ci va, insomma, di discutere, di non fare finta, insomma, che i problemi non ci siano. Fra l'altro in Grecia, insomma, sono stati 2 anni, forse 3, di continui scioperi generali, con grande sacrificio, ovviamente gli ultimi pochissimo tempo fa anche nella scuola, insomma lì sono stati tagliati direttamente gli stipendi e le pensioni, quindi insomma, però le cose vanno avanti, evidentemente forse bisogna ragionarci sopra, perché se pensiamo continuiamo a pensare, secondo me è così, di avere ragione a opporci a questa cosa, nelle analisi anche che ne facciamo sull'economia mondiale, sulla crisi che viene, è proprio uno strumento per ridefinire tutto il rapporto capitale-lavoro, beh, allora però questi problemi, insomma, ce li dobbiamo porre, dobbiamo cercare, che ne so, nuove forme, nuove strategie, ragionarci e non magari accontentarci, insomma, di exploit così, certo, periodici, che però non so cosa portano. Va bene. Ti ringraziamo per il tuo contributo. Ciao, ciao. Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parle que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré, craché, et créé un entravera la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disaient transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans depuis que des avions se sont crashés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tenez la corde au cou, dans certains pays elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la terre. conscient quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Questa è Kenya Arcana, Désobéissance civile. Contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris, le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité. Vuole essere benaugurante anche per ricordarvi tutte le iniziative di questa settimana, complici e solidali con i rivoltosi e le rivoltose del 15 ottobre, iniziative che vanno appunto a occupare tutta la settimana fino a comprendere lo sciopero dei sindacati di base e la manifestazione del 18, ma che iniziano con questa che è stata chiamata l'ottobrata romana, la catastrofe è ogni giorno in cui non accade nulla, il 16, 17 e 18 ottobre, quindi a partire da domani, ma nel frattempo già ci sono state iniziative, questa mattina all'università, in questo momento c'è un'assemblea alla Sapienza con cui stiamo cercando di metterci in contatto, ma per il momento non ci siamo riusciti, probabilmente l'assemblea va avanti. C'è stata questa mattina una nuova occupazione in via Fortebraccio nel quartiere del Pigneto, a distanza di 2 anni dal 15 ottobre 2001 è stato aperto un nuovo spazio per organizzarci in vista della 3 giorni dell'ottobrata romana e condividere le trame della solidarietà attiva, perché il 17 mattina ci sarà il presidio dalle ore 9 a Piazzale Clodio, un presidio solidale con gli imputati e le imputate del 15 ottobre 2011. E dunque, che volevo dire? Allora, no, poi c'è la questione ovviamente della legge di stabilità e quindi di adesso ne parliamo brevemente, quindi anche perché la stanno discutendo, è una cosa pure, noi siamo qua così con sta spada di Damocle, anzi sto masso da tonnellate che ci pende sulla testa. Questi stanno lì che discutono. Comunque, sulla questione che dicevamo, no, per esempio dell'atteggiamento l'anno scorso rispetto a le attività aggiuntive, le funzioni obiettivo, eccetera, cioè tutte quelle cose che sono, dovrebbero essere in più e che sono pagate appunto col fondo d'istituto o con fondi stanziati apposta. Già l'anno scorso hanno avuto un taglio enorme. E anche per quest'anno, intanto il budget, comunque tu cominci a lavorare, ma non sai quanto ti pagheranno e soprattutto se ti pagheranno. La coperta è corta, questa è una cosa che io mi sono sentita dire negli anni sempre, perché poi i criteri di distribuzione di questi soldi sono estremamente vaghi. ma vaghi no, ma insomma determinati da criteri che non sono certamente quelli del tipo di lavoro, dell'efficienza, della persona più in grado di fare quel lavoro, eccetera eccetera. La battaglia su aumenti uguali per tutti finì come è finita e quindi questa cosa è passata. Per quest'anno appunto pure il governo dice che la coperta è corta, quindi proprio lasciate ogni speranza a voi che entrate. Il discorso è che adesso sembra che stanzierando un budget che sarà un terzo, una parte, cioè un terzo, non si può dire un terzo perché non si sa quanto verrà poi stanziato alla fine, lo sapremo solo dopo che avremo lavorato, ma come l'anno scorso ancora una volta i soldi per le attività aggiuntive saranno quelli che rimarranno dal ventilato ripristino degli scatti che erano maturati di anzianità, che erano maturati nel 2012 e che sono stati bloccati. Quindi se avanza qualche cosa verrà dato. Questa è stata una cosa che per esempio alcuni sindacati, la CISL in testa, che almeno in passato è sempre stata diciamo una roccaforte del pubblico impiego, e insomma ha sbandierato come una grande vittoria, e vabbè, cioè li dai a quello, se quello doveva avere lo scatto sarà contento, ma tutti gli altri, qui non vogliamo dire che non devono dare gli scatti, vorremmo entrambe le cose. Sì, no, infatti è proprio questo il punto, perché è stata effettivamente sbandierata come una grande vittoria, e io sono anche d'accordo sul fatto che gli scatti sono dovuti, perché gli scatti vanno a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, e non vanno, come invece i fondi a cui tu facevi riferimento prima, agli amici dei dirigenti scolastici, perché poi tu facevi riferimento a criteri più o meno trasparenti. Il criterio 1 viene votato dal collegio docenti, e un'altra riprova della bulia sostanziale degli insegnanti è che i collegi docenti molto spesso votano quello che è gradito al preside, e quindi questi soldi finiscono nelle tasche di compiacenti amici del preside e così via. Però adesso, al di là di questo, gli scatti vanno a tutti, però non significa che tu togli risorse alla scuola per dare gli scatti a tutti, perché è come prendersi in giro. Per arrivare appunto alla mannaia che ci sta per cadere sulla testa, di fatto questa mannaia ancora non è dettagliata, ma sappiamo di che natura è, insomma, anche perché sono le stesse politiche che ormai vengono portate avanti da tanti tanti anni in questo paese, con governi di centrodestra, di centrosinistra, di tecnici e di Unità Nazionale, non mi ricordo come si chiamano, ma insomma, di fatto veramente non è cambiato nulla. Si taglia una volta un po' di più sulla scuola, una volta un po' di più sulla sanità, non si aumentano mai i salari, non si tassa il patrimonio, eccetera eccetera, e per di più, insomma, ci prendono pure in giro rispetto a questa cosa che l'Italia è un grande paese, che non è mica come la Grecia che deve rispondere alla Troica e all'FMI eccetera eccetera. Poi però è il governo stesso che si mette dentro tale Cottarelli, consulente per 25 anni del Fondo Monetario Internazionale, il quale le ha demandato i tagli in Grecia, in Turchia, in Albania, se non sbaglio, e però ci dicono: avete visto, grazie al fatto che c'è il governo d'unità nazionale non avete la troica. Vabbè, nel senso, ce la siamo chiamata noi, però insomma, qui, perché si arriva proprio alle prese di giro generali. Fatto sta che questa mattina il quotidiano di Confindustria, al Sole 24 Ore, titola: stretta sul pubblico impiego. E poi non si va a dettagliare fino in fondo, si tagliano gli straordinari, che non credo sia un fatto che riguarda la scuola, perché nella scuola non ci sono gli straordinari di fatto, però anche qui sembra, no, è messo in modo che sembra, certo che si taglia gli straordinari in un momento di crisi, che si fa, si dà pure soldi per gli straordinari, senza però poi andare a vedere che il turnover è bloccato, quindi i posti hanno la metà, ora la metà è troppo, ma insomma sono assolutamente il numero dei lavoratori e delle lavoratrici è assolutamente ridotto rispetto, e quindi insufficiente rispetto a quello che dovrebbe servire. Chi lavora in questi posti è obbligato a fare gli straordinari, che però non gli verranno più pagati, perché poi essenzialmente di questo si tratta, come a scuola già succede di fatto, o almeno vorrebbero che succedesse, perché non ci avranno obbligato alle 24 ore, ma insomma c'è sempre il ricattino che la classe rimane scoperta, e quando si lavora appunto con le persone a volte diventa anche difficile non rispondere al ricatto. No, vabbè, è evidente questo che dici, ma per fare un esempio che forse può rendere più comprensibile che significa il personale insufficiente, mi capita per caso di avere presente la situazione della tutela dei beni archeologici, ambientali, paesaggistici, che è fatta da organi periferici dello Stato, le soprintendenze, e su base territoriale, e con il blocco del turnover gli ispettori vanno in pensione, e quindi le zone su base territoriale si allargano, e le persone adesso oramai viaggiano a proprie spese con i propri mezzi di trasporto, e fanno rientrare negli straordinari il tempo che impiegano per raggiungere le zone di competenza. Questo non sarà più possibile, e di fronte però a una sbandierata e più volte sbandierata enfatizzazione del ruolo dei beni culturali nel rilancio e nella ripresa dell'Italia come sistema paese, insomma. Mi veniva in mente, leggendo un po' quella che è la bozza di questa legge di stabilità, che poi è una manovra, no? Una volta sì, si chiamava manovra. Ma perché non la chiamano più finanziaria? Perché hanno detto che le manovre non le facevano, per cui adesso si chiama così. Va bene, comunque nome. È come quello che... È come il PD, sostanzialmente cambia nome. È come quello che approvava per risparmiare a non dar da mangiare al cavallo, no? Allora gli dava sempre meno, finché alla fine stranamente il cavallo muore. E un po' noi siamo sto cavallo, no? Perché loro ci, insomma, da un paio d'anni, lasciamo perdere altre cose, tipo le leggi sulla flessibilità lavorativa, del centro-sinistra, inaugurate dal centro-sinistra, eccetera. Però insomma è un po' così, perché loro ci fanno, ci tagliano, ci bloccano i contratti. Parliamo ovviamente dei dipendenti, di noi insomma, che facciamo parte del pubblico impiego. Ci bloccano gli scatti di anzianità, non ci mandano in pensione, noi siamo sempre vivi. E allora insomma, finché alla fine, il discorso un po' che si faceva prima, finché alla fine evidentemente loro insistono, insomma. Si parla di tagli alla sanità per 4 miliardi e mezzo, cioè io devo rimanere a lavorare fino a 66-67 anni, però in condizioni di salute. Noi fra l'altro siamo il paese, uno dei paesi nel mondo che ha una più alta media, insomma, aspettativa, cioè abbiamo la media più alta di vita, quindi con un numero anche di anziani e anziane molto alto, e questo dipenderà anche insomma da una serie di cose, l'alimentazione, quello che volete, e però questo significa anche che abbiamo bisogno di una sanità che funzioni, evidentemente, non perché i giovani e i bambini non ne abbiano bisogno, ma insomma è chiaro che poi gli acciacchi con l'età aumentano. E allora che facciamo? Rimani a lavorare, però non ti curi, perché c'è pure chi dice che la migliore maniera per rimanere attivi è lavorare. Io non sarei tanto d'accordo, almeno lavorare sotto padrone, pubblico, privato. Comunque nel frattempo si sono fatte le 16:52, non avete chiamato per raccontarci cosa succede nelle vostre scuole, ne faremo a meno, che dobbiamo fare, ma sarà per una prossima volta. Noi ricordiamo insomma che lo sciopero comunque ha un concentramento alle 10 a Piazza della Repubblica, che finirà a Piazza San Giovanni, e che è comunque connesso alla manifestazione del 19 di sabato pomeriggio, che parte invece alle 14, insomma il concentramento è previsto alle 14 a San Giovanni, perché c'è questa, diciamo, continuità con lo sciopero, e quindi si rimane in piazza e poi si riparte il giorno dopo dalla stessa piazza per concludersi, mi pare, a Piazza della Croce Rossa, insomma verso Porta Pia, dove è il Ministero delle Infrastrutture. Sì. Perché poi lo slogan, che forse molti dimenticano, è un'unica grande opera, no? E adesso non me lo ricordo esattamente, scusate la mia, perché non è che poi venga molto ribadito, comunque proprio perché il concetto è che è anche un richiamo, insomma, a una componente importante degli organizzatori, dei promotori della manifestazione del 19, che è il movimento No TAV, proprio perché lì appunto invece si continua caparbiamente a cercare di buttare miliardi di euro, e invece poi togliendoli alla casa, ecco, era un'unica grande opera, casa e reddito per tutti e tutte, me lo sono ricordato per fortuna, e quindi richiamo evidente è proprio a chi ha lanciato questa manifestazione, i movimenti dell'abitare in tutto il nostro paese, il movimento No TAV. In chiusura di questa trasmissione, così diamo la notizia per chi non l'avesse letta, che il boia Priebke dice che lo porterà a Albano. A questo punto, nel senso, fanno il funerale a Albano, e come dire, innanzitutto tutta la nostra solidarietà ai compagni e alle compagne, agli antifascisti e alle antifasciste di Albano e De Castelli, ma più importante della solidarietà è l'appuntamento che lancia il collettivo Occupazioni Precarie Studenti, che già da adesso è in via Trilussa 45 ad Albano. Scrivono per chi volesse partecipare a un ultimo saluto. Questa trasmissione andrà in onda martedì prossimo, sempre alle 87.9 di Radio Onda Rossa. Ora di buco, @ondarossa.info, la nostra mail, oradibuco.noblogs.org, il nostro blog, per anche riascoltare le vecchie trasmissioni. Ci abbiamo un qualche problemino, io non so perché questa sigla non ci riesce mai a mandarla quando arriva il momento, perché il programma ci fa dei brutti giochi, ma noi ora insistiamo e troveremo il modo per mandarla, forse, non lo so, perché come dire, eccoci, arrivederci, anzi a risentirci. E dovreste parlare un momento voi, perché altrimenti io lascio la radio in silenzio, perché non funziona il programma con cui mandiamo le canzoni. Non c'è la nostra bellissima sigla, che quest'anno era nuova, perché quella dell'anno scorso era pure bella, era Luigi Tenco, Cara Maestra, ma insomma pure noi vogliamo rinnovarci. Sì, e questa è più bella nella, di quella, se riusciamo a mandarla, però la regia ci fa segno che la cosa è complicata, ma prendila da YouTube. Mandiamo YouTube non cosa. Si può citare così, da questa radio. No, niente, mandiamo un'altra cosa. Mandiamo un'altra la prossima cosa. Volta. Ci allora, provvedo. Martedì prossimo alle 16 dai 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte e tutti. Padroni, non vuole la pubblicità. 87.9 FM, libera la tua radio. is a room somewhere. Martedì, femminista autogestito. Far away from the cold night air. With one enormous chair. Ora noi già riceviamo 87 e 9, sta tornando a chiedere Sneuk e lo sti Radio Onda Rossa.